Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Buonasera a tutti, benvenuti al 64esimo Festival di Sanremo. L'inizio era un altro, quindi adesso devo improvvisare. Davanti a questo treno si capisce perfettamente qual è la sola vera grande opera che cambierebbe la nostra vita e soprattutto quella dei nostri figli. Aggiustare l'Italia, anche il sipario, ripararla, ricucirla dove è rotta, dove la montagna frana, dove la terra cede, dove si sbriciolano gli argini. Vabbè, che volete dire, povero Fabietto, l'arrampicata sugli specchi ha dovuto farsela anche lui, ma non è mica colpa lui. C'è una mente occulta, talmente raffinata, talmente profonda, talmente sottile, che ad arte, come qualcuno ha già provato a ventilare sadicamente, crudelmente, ha organizzato il sipario, ha organizzato l'incidente col treno, ma non voglio pensarlo, ha causato i due disoccupati che si sbilanciano dalla balaustra, ripetendo, ahimè, un compione già usuale per Sanremo, Fabietto Fazio ha avuto un po' di sfortuna all'inizio e il festival già nasce sotto una stella non propriamente tra le più felici. Ma certo, l'ambizione era smisurata. Fare un festival dedicato alla grande bellezza, quando ci guardiamo intorno e non troviamo nulla assimilabile al più modesto, al più semplice concetto di bello che noi possiamo in qualche maniera allucinare. Cosa aveva di bello questo festival? Secondo me non aveva nulla, forse Cat Stevens ha cantato soltanto, sì, un icone immarcescibile della musica internazionale, finché vivo gira come se fosse un santino, come se fosse un reduce, come se fosse una persona che ha toccato le vette più sublimi dell'essenza del mondo e dell'universo e si riconcerta ogni tanto e canta. Benissimo, già esisteva, già esiste, basta contattarlo, basta offrirgli un buon cachet, lui piglia e va, verrebbe anche in questo momento assieme a Valerio Rocchetti, Fabrizio e Tonti, se qualcuno lo chiamasse a far questo e gli desse in cambio ciò che chiede. Quindi non è una sorta di epifania, non è una discesa, non è un avatar che improvvisamente cala su umanità per propria generosità, per altruismo, per pietas verso il mondo che soffre, no, è semplicemente un artista che va e fa il suo mestiere. Voi probabilmente ci terrei che mi deste la vostra impressione del festival di ieri sera, perché io ho cercato di fare quello che faccio tutti gli anni, lo guardo, lo ascolto, mi prendo gli appunti, degli ultimi anni mi piace anche twittare o mandare messaggi in rete, ma quest'anno ne ho mandati soltanto due, non avevo nulla da dire, non ho trovato degli spunti così fantastici per poter dire faccio anche il cattivello verso Sanremo, non c'era cattivismo possibile nei confronti di questo festival di Sanremo, è stato quello che è sempre stato, in maniera molto più palese e più visibile si è perfettamente allineato con quello che era lo spirito del paese in questo momento, di un certo paese, il paese guarda Sanremo, di chi quella sera non ha trovato di meglio da fare o chi per tradizione lo fa da tanti anni e lo guarda sperando poi di avere un argomento per ragionare con i propri amici. Di cosa ragioniamo di questo festival di Sanremo? Gli spunti sono pochissimi. Era un festival all'insegna dei 60 anni della RAI. I 60 anni che definibili nella riedizione italiana di The Walking Dead, cioè i morti viventi che ogni tanto riappaiono. Qualcuno ne è riapparso e nella catena dei morti viventi evocati probabilmente non poteva mancare una delle più immarcescibili icone legate a Sanremo che vorrebbe certificare il fatto che il festival di Sanremo è un festival legato alla pancia della gente, ai problemi della gente, esattamente come tanti hanno già detto in questo momento, fino a questo momento, come a Baudo nel 95 ci fu il tarocco suicida che poi fu sconfessato negli anni, si capì che era tutta una combina, una mezza combina, qualcosa che comunque è stato tollerato. Ci sono stati due leciti, veri, reali, concreti lavoratori che lavorano da tanto tempo senza prendere stipendio in un posto di lavoro in cui altre persone si sono suicidate, che hanno ripetuto lo stesso copione. Sentiamolo insieme, contrapposti. E che si occupa... Scusate un momento, scusate, c'è un signore scritiereato che sta lì affacciato alla balaustra e non so con quali obiettivi. Ti prego di non dare escandescenze, torna indietro per piacere. Ma qual è il motivo? Scusa, sono disperato. Ma la tua disperazione così non succede niente. Pippo, ti voglio bene, sono giusto mio figlio. Io ti prego che ti aiuterò. Me lo prometto? Non te lo prometto. Mi fai restare? Te lo prometto, vieni qui. La bellezza non è un lusso. La bellezza è pane quotidiano. Attenzione un attimo! La bellezza va cercata. Un attimo, l'attenzione! Va difesa. Sono tutelata. Accendete le luci per cortesia, no, mi dispiace, stia tranquillo, la lettera la leggo, ma se fate così non serve a niente, no, aspetti, leggiamo la lettera, venga giù, ma venga. Vogliamo essere cattivi, crudeli, scriteriati, infami? Oddio, l'audio sente un po' tanto bene, un po' troppo bene, per come si deve sentire dentro un auditorio in cui il microfono aperto era quello di Fabio Fazio, ma ci sono i microfoni d'ambiente, si sente lo stesso. Sentendolo così, il preludio sembra tanto quello di Ciro Ciro, che è un'altra famosa e fantastica taroccaggine televisiva. Ma non fermiamoci su questo, non è questo importante. Qual è il punto di bellezza che avete colto in questo Festival di Sanremo? 800240024, quando poi le rappresentanti o i rappresentanti del bello in realtà erano una voluta, necessaria, importante, molte volte anche eticamente motivata, parafrasi grottesca di ciò che noi intendiamo per bello. Lucia Nina Littizzetto, ma è una busta di lizio, cosa hai fatto? Allora, intanto guarda cosa? Che fagiana che è arrivata qua. Che bella quaglia, vuoi che ti faccia vento col culo? No, guarda che terrasse sulla sì, mela. Era detto una buccia di lizio, sì, sì. Questa però non frana, speriamo. No, questo no, no, spero anch'io che non frani. Vedi, siccome tu non vuoi mai mettere i fiori sul palco, li ho messi qua tra le tette. Sì, ho capito. Meno male che non siamo a Modena, sennò dovevo mettere dei culatelli. Ti stanno bene. Ecco qua, e vedi qua chi c'è? Chi c'è? Mollica. Chissà perché, per la nostra particolarissima e singolare deviazione di senso nazionale, del corpo delle donne non si può parlare, non si può accennare, non si può osservare, non si può esporre, non ci si può eccitare guardandolo, ma si può prendere per il culo, si può ridere la donna pettoruta, si può ridere sulla donna procace, sulla donna bella, sulla donna che si espone. Non c'è libertà della donna di mostrarsi anche seducente, perché la Littizzetto, che è una grandissima artista, ma in realtà è la chiave della sua comicità essere proprio la negazione di ciò che viene rappresentato secondo gli stereotipi classici dell'avvenenza, della femminilità, e lei può, da cattivella, prendere in giro le donne che hanno, ahimè, questa sfortuna, questa dannazione, questa sorta di impervia vicenda naturale di essere belle, attraenti e procaci. Questo è un po' il destino che mi lega a una mia cara collega che è Marta Cagnola. Marta, buongiorno. Buongiorno, temevo che mi lanciassi sulle cariatidi e sui morti. No, no, su quelle che hanno, ahimè, l'onere di dover portare avanti la loro procacità e quindi devono nasconderla per non essere tacciate di complici del desiderio maschile. No, guarda, io invece ho sempre dell'idea che bisogna essere ironiche, simpatiche, ma anche possibilmente un po' fighe. Eh certo, ma se non è meglio, se non lo è uno si aggiusta per esserlo. Tu hai mai visto una persona che si imbruttisce? Tutti cerchiamo di infighirci, quindi la figaggine è una categoria eccelsa, perché dobbiamo denigrarla? Sono d'accordo. Cosa c'era di figa in questo festival, secondo te, o di figo? A parte già la tua risposta è scontata, dai. No, vabbè, no, non parliamo del pallavolista, dai, se non del pallanuotista, lì cosa non fa che sport faccia, ma era in ottima salute. No, non voglio parlare di quello. Allora, secondo me ieri sera qualcuno indossava qualcosa di viola. Sai che Fabio Fazio è super superstizioso? Peggio della Carrà, ecco. Perché a un certo punto ha detto 17, la Carrà che è superstiziosissima, non vuol vedere il viola nemmeno nel raggio di un chilometro dalla sua persona, ha detto no, 16 più 1. Ecco, e quindi io ti dico, secondo me altro che cose fighe, secondo me, adesso qualche ascoltatore si arrabbiava perché stiamo dicendo le parolacce, è stato mica figa è una parolaccia, all'inizio della figa. Cioè? Spiegami il concetto. Allora, cosa è successo? Che i primi 20 minuti hanno rovinato tutta la scaletta, hanno dovuto far cambiare tutti i blocchi, le interruzioni pubblicitarie, e quindi bastava un granello di sfiga, c'è stato più d'uno, per far cascare tutto il castello di carte. Ecco, secondo te quindi, diciamo, la malizia che gira naturalmente nei blog, in rete, che sia stato tutto una cosa artefatta, si smonta sul fatto che poi ha danneggiato il festival questo episodio? Ma guarda, si smonta su due cose. Il fatto che in realtà non ha, appunto, non ha favorito la costruzione del festival, ma ha fatto sì che venisse ammazzato il momento Ligabue, Pagani, su De André, cioè che praticamente doveva essere un grande momento d'apertura, è stato infilato che sembrava quasi un fegatello, un riempitivo per risolvere il problema della protesta. Quindi il pathos era distrutto praticamente. Sì, perché poi in realtà poi, insomma, che la protesta fosse vera adesso è chiaro, perché abbiamo i nomi, le identità, le storie delle persone che hanno fatto quello che hanno fatto e come l'hanno fatto, quindi insomma un po' diverso da quello che succedeva negli anni di Paolo. Ma sai però, Marta, conoscendo tu il teatro Ariston, conoscendo tutti noi, diciamo che è un po' difficile arrivarci lassù, che la protesta sia vera non lo metto in dubbio, ma che non sia stato un sistema di sorveglianza così attento. Allora, ci siamo fatti spiegare bene perché. E come hanno fatto? Allora hanno acquistato due biglietti, perché ce ne sono ancora disponibili, e due dai bagarini, perché se ne possono comprare solo due alla volta. Tre uomini e una donna, la donna ha finto un malore e nel frattempo gli altri due sono riusciti, insomma, distraendo con questo malore le forze di sicurezza presenti nel teatro, che poi ribadiamo un piccolo cinema, insomma l'Ariston non è la Scala, no, è un buchettino, sono riusciti a fare quello che hanno fatto. Quindi è stata un'azione comando ben congegnata, che però ha creato un problema, certo. Sì, anche perché queste persone, diciamo, abbiamo poi scoperto nel giro di pochi minuti e avevano dei precedenti da questo punto di vista, cioè sono abituati ad azioni di disturbo, sono stati già tutti denunciati in altre sedi per interruzioni di pubblico. Ma comunque professionisti, fanno il loro mestiere. Senti una cosa, invece, come mai è mancato l'effetto Grillo che tutti si aspettavano? Perché si è lasciato andare questa occasione, non è poi entrato e ha fatto quel minimo di casino possibile che poteva fare? Allora, qualcuno in maniera molto cinica dice perché la protesta dei disoccupati, non tanto dei disoccupati, ma delle persone che hanno protestato per le condizioni del loro lavoro e per il fatto che non prendono lo stipendio, ecco, che questa protesta abbia oscurato Grillo e che per questo lui abbia deciso di lasciare la sala in realtà dopo una mezz'oretta di festival. Infatti, di fronte al disoccupato, il miliardario che protesta non dava più molto senso, ecco, è un po' difficile. Ecco, cioè, cinicamente questa è una visione. Io penso in realtà che lui dall'inizio volesse solo fare molto rumore fuori, e l'ha fatto, perché fuori è stato veramente un delirio, e che poi all'interno, per tante ragioni, magari anche per antica amicizia con Grillo, visto che comunque hanno chiacchierato nel primo spot pubblicitario, insomma nel fuori onda, Fazio è andato a chiacchierare con Grillo, insomma credo anche per rapporti personali, insomma alla fine abbia deciso di non... Sì, ma l'ha detto giustamente Giancarlo Leone, ha detto conosce le leggi dello spettacolo e non portava bene disturbare uno spettacolo, cioè è come dice andare a alzarsi in piedi e dir parolacce durante la messa cantata della notte di Natale, non porta non bene. Non si rende simpatico, peraltro. No, non si rendeva simpatico. Fermiamoci un istante, Marta, perché dobbiamo dare le informazioni del traffico, poi riprendo con te, mi dai qualche altro interessante dietro le quinte della tua presenza a Sanremo. Melog, cronache meridiane. Ma poi tra l'altro io ho letto che tu ti chiami Pippa, Rosalba Pippa, e perché non ti sei tenuto questo cognome meraviglioso? È perché adesso... è scema, non ti manchi capo. No, perché potevamo dire grande interpretazione, la miglior Pippa di sempre. Ma intanto il televoto è chiuso, guarda che... Allora, in questo momento... Io volevo dire che questa battuta proprio la trovavo vecchia, perché scherzare su Arisa, che si chiama Pippa di cognome, non c'ha senso. Uno già questa sfortuna lo tiene nascosto. Ma già vedo tutti sorridere al di là del vetro, in tonti i rocchetti sono entusiasti, quindi evidentemente ha colto il segno questa battuta da litizzetto. Abbiamo al telefono Giorgio. Giorgio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io effettivamente la vedo moltissimo come lei, nel senso che è stata di uno stantio e di un vecchio, anche questa battuta che ha fatto sentire, mi sono cadute le braccia, nel senso che non c'è niente di nuovo. Ma sa, mirare anche alla bellezza... Per discuterne, per dire che certo. È brutto o che è bello, è la partita. Ho visto il Barcellona con col Manchester City, perché... Ma infatti l'ascolto non è stato entusiasmante, diciamo la verità, anche se non dice nulla, la prima serata non dice nulla. Molto vecchio, molto molto vecchio, molto ripetuto, tutte cose che loro fanno automaticamente. Però guardi, la caratteristica di successo di Sanremo è che deve essere vecchio. Tutte le volte che si sono cercate formule innovative, si è uscite dal tracciato. È come le persone che si stracciano le vesti, se vogliamo rimanere nell'ambito liturgico, per la messa in italiano, la messa in lingua volgare, figuriamoci. Sembrava una profanazione, ogni cambiamento alla liturgia di Sanremo sembra una profanazione. In questo è perfetto. Fazio il chierichetto della grande messa cantata del rispetto alla tradizione. Infatti è apparso Tito Stagno, cioè ha risumato la Carrà, ha fatto una grande operazione, anche se poi nel duetto Carrà-Litizzetto in effetti sembrava molto meglio conservata la Carrà della Litizzetto. Raffaella Carrà al Festival di Sanremo, ciao! Chiacchieriamo ora. Hai fatto un filo alla Castà, ragazzi. Io non lo so. No, questo... la verità ve la dico, mi sono confuso. Castà Carrà, cioè questa è stata la no, cosa. No, ma che bugiardo! Allora, pubblicità. Io vorrei aggiungere la mia modesta voce, ma la vorrei aggiungere con tutto il cuore, e rivolgermi al governo indiano, perché dopo 2 anni faccia giudicare i nostri 2 marò qui in Italia. Probabilmente non mi ascolterà nessuno, però io mi aggiungo a tutto il popolo italiano, o quasi tutto, certo, per questa richiesta che veramente... Certo. Io non sottovaluterei la richiesta della Carrà, per me è molto più facile che ascoltino la Carrà piuttosto che ascoltino la Bonino. Marta Cagnola, ma doveva essere un festival politico questo? In realtà di politico, ecco, c'è stata la Carrà che ha fatto come al solito la sua parte, fatta bene, profonda, di cuore, però efficace, capito? Gli altri sono molto astenuti di avere questo contatto diretto con quelli che sono i problemi più laceranti e più all'ordine del giorno della vita civile, come appunto Marò. Tra l'altro io questa mattina ho letto critiche su alcuni quotidiani che sembravano scritte prima di aver visto il festival. Dopotutto le pagine cartacee dei quotidiani chiudono molto presto la sera. Quindi ma sì, ma i tuoi critici vanno a letto, vedono la prima mezz'ora, poi mandano il pezzo che chiude la pagina e se ne vanno. Vanno a dormire. Esatto, quindi le polemiche politiche o insomma le presunte pressioni politiche erano già non tutte c'è stato state nulla. Pensate, nulla. Teorizzate ben prima di aver visto la serata, insomma. Infatti non c'è stato, tutti lo pensavamo, vediamo cosa succede, si pensava Grillo, le 2 mogli dei Marò con le bandiere, invece c'è stato quasi nulla. La Carrà ha fatto questo suo imperfetto stile carrarese, capito? Che secondo me può essere molto più efficace a far riflettere rispetto a qualsiasi altro proclama possa essere fatto, poi non c'è stato nulla. Senti, sugli ascolti, sei fatto qualche, visto che anche questi hanno il loro peso, ci sono già delle valutazioni, la prima serata non dice mai nulla, anche se poi il trend si vede alla fine. Guarda, devo dirti, secondo me questa cosa pone un problema molto importante di prospettiva. Allora, gli ascolti sono in calo di 2 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Comunque, devo dirti che nel momento della frammentazione degli ascolti, degli schermi televisivi, certo, questi ascolti danno il senso di quello che succederà alla televisione in generale. Cioè, una televisione con soli grandi eventi che riescono a fare comunque il 45%, 45-93% per la prima serata, insomma, e altri ascolti totalmente frammentati. Cosa succederà? Che la televisione sarà fatta di soli grandi eventi, a me sembra comunque ancora tanto il 45%, loro sono comunque contenti, non c'è l'effetto sorpresa del primo festival di Fazio, questo è poco ma sicuro, e c'è anche da dire che la prima mezz'ora è stata faticosissima e questo non aiuta mai. Insomma, soprattutto Marta, se inizia un rapporto sentimentale male, è difficile che nasca. Hai detto una cosa molto giusta, più si va avanti più è dissennato fare paragoni con festival precedenti. Sta mutando talmente velocemente, in maniera talmente radicale, tutto il mondo del tempo passato in momenti audiovisivi, che cambia tutto, non è più quella di un anno fa la televisione, non sarà più nemmeno fra un anno quella di 2 anni fa. Sentiamo Bruna. Pronto? Sì, Bruna, eccomi. Buongiorno dottore, innanzitutto le ripeto, ho 68 anni, lei mi piace moltissimo come porta avanti i suoi programmi. Mi devo preoccupare? Sì. Sì, molto. In questo caso si preoccupi tantissimo, dottore. Stia tranquillo. Me ne guarderò. Se non ce l'ha lei a preoccuparsi tanto, l'aiuto io. Volevo dirle, a 68 anni io di Sanremo ne ho visti forse qualcuno più di altri, ma mi creda che come ieri sera e come l'anno scorso e come le domeniche, che cioè Fabio e la Luciana sono sempre gli stessi, non cambiano niente, anche le battute della signora sono sempre le stesse. E perché dovrebbero cambiare, scusi? Se ma fossi... perché sono, diventano noiosi, sono ma il mercato... noi paghiamo un canone per avere anche delle cose diverse, e invece l'anno scorso l'ho capito che era un discorso di novità che conducessero loro Sanremo con le battute stantie della signora, sempre contro uno, contro l'altro, contro quell'altro, e va benissimo. Beh, un comico fa ridere se prende in giro qualcuno. È sempre uguale, è sempre uguale. Lei quindi vorrebbe, pur essendo una veterana del festival, qualcosa che le desse il brivido della novità. Sì, anche perché, ripeto, qui di brivido non c'è niente, assolutamente. L'anno scorso ho avuto un pochino più di brivido, perché la coppia era nuova che presentava Sanremo, era... Ma quest'anno ancora loro, e l'anno prossimo cosa fanno ancora loro? Tengo la televisione. Ecco questa. Non può la Rai, che è così grande, così importante, che ha la possibilità di avere personaggi nuovi e bravi, o vecchi o bravi, o che perlomeno non li vediamo tutte le settimane. Cioè, Fazio lo vediamo tutte le settimane, la signora la vediamo tutte le settimane. Basta. Questo è, diciamo, è un esempio da manuale di abbonato, e fa sentire la sua voce. Pure il mercato gratificando Fazio e Letizietto, perché non cambiano? Perché sono benissimo pagati, il loro valore di mercato è molto alto, perché sono questo, perché dovrebbero cambiare? Se il mercato questo richiede, se il mercato perlomeno pensa che questo abbia successo e soddisfi i propri clienti, perché dovrebbero cambiare? La signora però solleva qualche problema, non sarà l'unica a sollevarlo, di assuefazione, sempre gli stessi, è vero, l'impressione era che non si fossero sforzati molto, non abbiano fatto nessuna fatica, nessuna ricerca. Giovanni. Sì, buongiorno Nicoletti. Senta, il fatto che non abbiano parlato di politica quest'anno, beh, è semplicissimo da individuare, perché ovviamente è venuto a mancare, è venuto meno quello che era il loro obiettivo numero uno da sempre, cioè Berlusconi. E ci avevano un po' di difficoltà a capire ancora se possono prendersela con qualcuno degli uscenti o se possono prendersela con qualcuno dei viventi. Certo, con chi avrebbero dovuto prendersela? Con il PD? Assolutamente non è possibile, se no mica uno se la zappa sui piedi, chiaro. Solo per questo non hanno parlato di politica, perché non c'è più il Caimano. Diciamo che è anche un momento di festa che va proprio nell'incrocio di un cambio di padrone, anche se sembra impercettibile, abbastanza deciso. Quindi non hanno fatto in tempo a ricollocarsi, non è stato fatto l'elenco ancora degli amici e dei nemici, e quindi, ahimè, l'avversario, ammesso che ci fosse, non c'è stato tempo per prendere la mira e capire da che parte stia. Sei d'accordo te, Marta, su queste due telefonate? O perlomeno dimmi un tuo commento. Allora, per quanto riguarda la politica, effettivamente è un periodo molto difficile, ma c'è anche da dire che Fabio Fazio sa benissimo che Sanremo non sarebbe comunque la sede per dare un chiaro indirizzo politico a un festival, insomma, è un uomo troppo intelligente per... E poi è sempre ben piazzato al posto giusto, non ha mai sbagliato un colpo, quindi figuriamoci. No. Sa dove sta. Per quanto riguarda il rinnovamento dei volti, vabbè, devo dire che con gli ascolti l'anno scorso un Fazio bis ci stava... perfettamente, anche se si sapeva che non poteva rimanere, insomma, non si rimane mai due anni allo stesso livello. Insomma, l'anno prossimo a me piacerebbe prima o poi un Carlo Conti, io sono molto affezionata a Carlo Conti, trovo che sia bravissimo. Ma come? Però Bonolis. Mi rievo, vai anche tu ad attingere nel sepolcro dei morti viventi, degli imbalsamati. No, però povero, scusa, Carlo Conti, una volta glielo facciamo fare, dai. Che vabbè, se questo pensi che si soddisfi, però il fatto che una signora, diciamo, non proprio, diciamo, dell'ultima ora, senta la necessità che cambi qualcosa, non è un segnale in fondo? Non c'è secondo te un senso generale per dire quanto vogliamo tenere in piedi questo monumento e per quanti ancora sarà di soddisfazione questo monumento? Quella che è una fase anagrafica. Io sono del 54, quindi ho visto nascere la televisione quando vidi la luce. Diciamo che mediamente il pubblico della televisione italiana, lo zoccolo duro, ha una decina d'anni più di me. capito? Ma quanto rimarranno con tutte le diottrie a posto e con tutte le lucidità possibili vivo questo genere di pubblico per poter avere ancora come evento centrale a televisione eventi come Sanremo? Ma secondo me rimarranno solo, appunto, come ti dicevo, questi grandi eventi, e Sanremo è quello che ha maggiori chance di sopravvivere, insomma. Potrebbe essere l'ultimo dei 10 piccoli anni. Rituffati, Marta, nelle meraviglie del retrobottega dell'Ariston, del retropalco. Ci sentiamo prossimamente. Saluti a tutti.